Capitolo 38. La novità del viaggio e la gioia che le dava il trovarsi in compagnia di William produssero presto il loro naturale effetto su Fanny, che quando Mansfield Park fu lasciato un bel po' indietro e quando la loro prima tappa fu compiuta e dovettero lasciare la carrozza di Sir Thomas per quella del servizio postale, fu in condizioni di prendere congedo dal vecchio cocchiere e di affidargli le ambasciate per ciascun membro della famiglia, con aspetto sereno. Fratello e sorella conversarono piacevolmente, ininterrottamente. Tutto era motivo di divertimento e di allegria per William, che al colmo della gioia improvvisava commenti burleschi e scherzosi quando languivano le considerazioni di tono più elevate, che finivano tutte quando non iniziavano con le lodi della Thrush, con le congetture sul come sarebbe stata impiegata, con piani di immaginarie azioni contro le forze navali nemiche superiori che, supponendo il primo tenente fuori causa, e William non aveva gran compassione per il primo tenente, gli avrebbero permesso di meritare la successiva promozione al più presto. Oppure con speculazioni circa il conseguimento di premi in denaro che sarebbero stati generosamente distribuiti a casa, trattenendo solamente il sufficiente per dotare di tutti i comodi il piccolo cottage nel quale lui e Fanny avrebbero trascorso insieme la loro maturità e la loro vecchiaia. Le immediate preoccupazioni di Fanny riguardo Mr. Crawford non ebbero parte nella loro conversazione. William sapeva quanto era avvenuto e per parte sua lamentava che i sentimenti della sorella fossero così freddi verso un uomo che lui non poteva considerare se non come dotato di indole assolutamente superiore, ma era in un'età che è tutta per l'amore e perciò, lungi dal biasimare la sorella, e sapendo quale fosse il desiderio di lei in proposito, non voleva amareggiarla con la benché minima allusione. Fanny aveva motivo di credere di non essere ancora stata dimenticata da Mr. Crawford. Aveva ricevuto ripetutamente lettere dalla sorella di lui durante le 3 settimane trascorse da quando avevano lasciato Mansfield. In ogni lettera vi erano state alcune righe di pugno di Harry, calde e decise come i suoi discorsi. Era una corrispondenza che Fanny trovava spiacevole, proprio come aveva temuto. Lo stile di Miss Crawford, vivace e affettuoso, era già un male di per sé, indipendentemente dal fatto di essere costretta a leggere quanto era stilato dalla penna del fratello. Poiché Edmund non aveva pace finché non gli veniva fatta lettura della parte principale della lettera. Dopodiché Fanny doveva ascoltare i suoi commenti ammirati sul linguaggio e sul calore degli affetti di Mary. Tanta parte di quelle lettere era stata infatti dedicata ad ambasciate, allusioni, ricordi, menzioni di Mansfield, che Fanny non poteva non supporre che fossero scritte con l'intenzione che lui le leggesse e il trovarsi costretta a far da tramite in un simile piano, costretta a una corrispondenza che le portava le dichiarazioni dell'uomo che non amava e la obbligava a somministrare alimento alla passione, a lei così invisa, dell'uomo che amava. Era crudelmente mortificante. Anche da questo punto di vista, il suo provvisorio allontanamento prometteva un vantaggio. Quando non si fosse più trovata sotto lo stesso tetto di Edmund, confidava che Miss Crawford non avrebbe più avuto per scriverle motivi abbastanza forti da vincere la fatica di farlo. E che a Portsmouth la loro corrispondenza si sarebbe gradatamente ridotta a zero. Con questi e 1000 altri pensieri, Fanny, sicura e allegra, continuò quel viaggio che procedeva con tanta rapidità quanta se ne poteva ragionevolmente sperare nel fangoso mese di febbraio. Entrarono in Oxford, ma poté dare solo un'occhiata frettolosa al collegio dove aveva studiato Edmund, mentre lo oltrepassavano attraversando la città. Non fecero altre tappe finché non giunsero a Newsbury, dove un pasto ristoratore che cumulava pranzo e cena coronò i piaceri e la stanchezza di quella giornata. La mattina seguente ripartirono per tempo e procedettero regolarmente, senza eventi di rilievo e senza ritardi, giungendo nei dintorni di Portsmouth quando ancora c'era abbastanza luce da permettere a Fanny di guardarsi intorno e di meravigliarsi alla vista degli edifici nuovi. Oltrepassarono il drawbridge ed entrarono in città e il crepuscolo cominciava a calare quando, guidate dalla possente voce di William, le ruote della carrozza Rotolarono lungo l'acciottolato di una viuzza che partiva da High Street e si fermarono davanti al portone della piccola casa dove ora abitava Mr. Price. Fanny era agitata e confusa, piena di speranze e di apprensione. Nel momento in cui si fermarono, una servetta dall'aspetto sciatto, che apparentemente li stava aspettando sulla porta, si fece avanti e, più intenta a dare la notizia che a venire loro in aiuto, disse tutto d'un fiato: «Signore, signore, la Thrush ha lasciato il porto e uno degli ufficiali è stato qui per...» Fu interrotta da un bel ragazzo alto sugli 11 anni che, precipitandosi fuori dalla porta, spinse da parte la domestica e, mentre William apriva personalmente lo sportello della carrozza da viaggio, gridò: «Sei appena in tempo, è mezz'ora che ti cercano. La Thrush ha lasciato il porto stamattina, l'ho vista, era bellissima e pensano che l'ordine di partenza arriverà fra un giorno o due. E Mr. Campbell è venuto qui alle 4 a prenderti, a uno dei canotti della Thrush che la raggiungerà alle 6 e ha detto che sperava che tu saresti arrivato in tempo per andare con lui». Un'occhiata o due a Fanny, che William aiutava a scendere dalla carrozza, fu tutta la spontanea attenzione che questo fratello le concesse, ma non si sottrasse al suo bacio, pur impegnato come era a dare ulteriori particolari sull'uscita dal porto della Thrush, argomento al quale aveva pieno diritto di interessarsi, visto che proprio su di essa e in quella circostanza doveva iniziare la sua carriera di uomo di mare. Un istante dopo, Fanny si trovò nell'angusto ingresso della casa e fra le braccia di sua madre, che le venne incontro con un'espressione veramente affettuosa che a Fanny fu tanto più cara, in quanto ritrovò, nei tratti del suo viso, quelli di sua zia Bertram. E c'erano le sue due sorelle, Susan, una bella e prospera ragazza di 14 anni, e Betsy, la più piccola della famiglia, di 5 anni circa. Tutte e due contente di vederla, ciascuna a modo suo, benché nel riceverla non dessero gran prova di belle maniere. Ma non erano le belle maniere che Fanny desiderava, bastava che le volessero bene. Fu poi condotta in un soggiorno così piccolo che la sua prima impressione fu che si dovesse trattare di una stanza di passaggio che immetteva in un ambiente migliore, e rimase ferma per un momento in attesa di essere accompagnata in una stanza più degna. Poi, quando vide che non vi era un'altra porta e che dai molti evidenti indizi si doveva dedurre che quella era una stanza abitata, scacciò quel primo pensiero e si rammaricò per tema di averlo lasciato intuire. Sua madre, tuttavia, non si trattenne abbastanza a lungo per avere tempo di nutrire simili sospetti. Era andata nuovamente alla porta d'ingresso per accogliere William. «Oh, mio caro, caro William, quanto sono contenta di vederti! Ma hai sentito della Thrush? È già uscita dal porto, 3 giorni prima di quanto si potesse prevedere, e non so cosa fare per l'equipaggiamento di Sam. Non potrà essere pronto in tempo, perché può darsi che gli ordini di partenza arrivino addirittura domani e la cosa mi prende proprio alla sprovvista. E tu poi devi muoverti subito per andare a Spithead. Campbell è stato qui preoccupatissimo per te. E ora... Cosa dobbiamo fare? Pensavo di trascorrere una così placida serata con te e invece tutto quanto mi cade addosso nello stesso momento». Il figlio le rispose allegramente, le disse che tutto sarebbe sempre andato per il meglio e non diede peso al disagio che causava a lui il fatto di dover partire così su due piedi. Naturalmente avrei preferito molto che si fosse fermata in porto per poter così trascorrere con voi qualche ora tranquillamente, ma poiché c'è un canotto a riva, sarà meglio che me ne vada subito. Non c'è altro da fare. In che punto di Spithead è ancora la Thrush? Vicino alla Canopus? Ma lasciamo stare, c'è Fanny nel soggiorno, perché mai ce ne stiamo nell'ingresso? Venga, mamma, lei non ha quasi ancora guardato la sua Fanny. Entrarono insieme e Mrs. Price, avendo nuovamente baciato la figlia con affetto e fatto qualche commento su quanto era cresciuta, incominciò con naturalissima sollecitudine a preoccuparsi della stanchezza e delle esigenze dei due viaggiatori. «Oh, poveri cari, come dovete sentirvi stanchi! E ora cosa volete prendere? Incominciavo a pensare che non sareste arrivati mai. Betsy e io siamo state allerta durante tutta quest'ultima mezz'ora e quando avete mangiato qualcosa l'ultima volta? Cosa gradireste ora? Non sapevo se avreste preferito un po' di carne oppure un tè dopo aver viaggiato, altrimenti avrei preparato qualcosa. E adesso temo che Campbell capiti da un momento all'altro, prima che ci sia tempo di cuocere una bistecca, e non c'è nessun macellaio nelle vicinanze». È molto scomodo non avere un macellaio qui nella strada. Stavamo più comodi nell'altra casa. Forse vi farebbe piacere un po' di tè appena potrà essere pronto. Tutti e due assicurarono che il tè era quanto avrebbero preferito a qualsiasi altra cosa. Allora, Betsy, corri in cucina e vedi se Rebecca ha messo l'acqua sul fuoco e dille di portare tutto quanto occorre per il tè il più presto possibile. Vorrei che ci riuscisse di far aggiustare il campanello, ma Betsy è bravissima come messaggera. Betsy partì con tutta alacrità, orgogliosa di dar prova delle sue capacità agli occhi della sua nuova, bella, elegante sorella. Povera me, continuò la madre, tutta presa dalle sue ansie. Che misero fuoco abbiamo, e sono sicura che siete tutti e due morti dal freddo. Spingi la tua sedia più vicina, cara. Non so davvero cosa abbia combinato Rebecca. Sono certa di averle detto mezz'ora fa di portar su un po' di carbone. Susan, avresti dovuto badare tu al fuoco. Ero di sopra, mamma, a spostare le mie cose, disse Susan con uno spavaldo accento di autodifesa che diede un soprassalto a Fanny. Sa bene di aver deciso solo poco fa che mia sorella Fanny e io avremmo occupato l'altra camera e non sono riuscita a farmi aiutare da Rebecca. Il proseguimento della discussione fu impedito da vari trambusti e fracassi. Per prima cosa entrò il cocchiere per essere pagato, poi vi fu un battibecco fra Sam e Rebecca sul miglior sistema di portar di sopra il baule di Fanny, che lui voleva decidere a modo tutto suo, e finalmente fece il suo ingresso Mr. Price in persona, preceduto dalla sua voce sonora, mentre con parole molto simili a imprecazioni spingeva via a calci la sacca da viaggio del figlio e la valigia della figlia che ingombravano l'ingresso e chiedeva a gran voce una candela, ma poiché nessuna candela gli fu portata, entrò direttamente nella stanza. Fanny, in preda a contrastanti sentimenti, si era alzata per andargli incontro, ma ricadde a sedere, rendendosi conto che, data l'oscurità dell'ambiente, il padre non l'aveva scorta e che inoltre non pensava assolutamente a lei. Con un'amichevole stretta di mano al figlio e con voce sollecita incominciò immediatamente: Ah, bentornato, ragazzo mio, lieto di vederti. Hai sentito le notizie? La Trash è uscita dal porto stamane. Quando si dice la puntualità, per Dio, sei appena in tempo. Il dottore è stato qui a cercarti. Ha una delle scialuppe, deve partire per Spithead entro le 6, perciò è meglio che tu vada con lui. Sono stato da Turner a proposito del tuo equipaggiamento e tutto è in via di sistemazione. Non mi stupirei se tu ricevessi il foglio di ordini entro domani, ma non potrete partire con questo vento se siete diretti a ovest e il capitano Walsh è sicuro che lo siate, voi e l'Elephant. Per Dio, vorrei che fosse così, ma il vecchio Scully mi diceva proprio poco fa che secondo lui prima vi manderanno a Texel. Bene, bene, siamo pronti, capiti quel che capiti, ma per Dio, tu che stamattina non eri qui a vedere la Trash uscire dal porto, hai perso un gran bello spettacolo. Non avrei voluto perderlo, io neanche per 1.000 sterline. Il vecchio Scully è corso qui all'ora di colazione per dirmi che aveva levato le ancore e che stava uscendo. Sono balzato in piedi e in due salti sono arrivato alla banchina. Se mai si è vista galleggiare sul mare una perfetta bellezza, questa è la Thrush. Ed è ancorata a Spithead. E chiunque in Inghilterra la scambierebbe per una 28 remi. Questo pomeriggio sono stato sulla banchina per 2 ore a guardarla. È ancorata vicinissima all'Endymion, fra questa e la Cleopatra, esattamente a est del pontone perpendicolare. Ah, esclamò William, è proprio dove l'avrei piazzata io stesso, è il miglior punto d'ancoraggio a Spithead. Ma ecco mia sorella, signora, ecco Fanny. E volgendosi a lei la guidò verso il padre. È tanto buio che lei non l'ha vista. Ammettendo apertamente di essersi completamente dimenticato del suo arrivo, ora Mr. Price accolse la figlia e dopo averla abbracciata cordialmente e aver osservato che si era fatta donna e che supponeva presto avrebbe avuto bisogno di un marito, ebbe tutta l'aria di dimenticarla completamente un'altra volta. Fanny si rannicchiò di nuovo sulla sedia, tristemente mortificata dal linguaggio rozzo del padre e dall'odore di alcol del suo fiato, e lui continuò a parlare solamente al figlio e unicamente della Thrush. Benché William, per quanto fosse caldamente interessato a quell'argomento, più di una volta tentasse di indurre il padre a prestare attenzione a Fanny e a pensare alla sua lunga assenza da casa e al lungo viaggio appena compiuto. Restarono seduti ancora un po' e finalmente comparve una candela. Ma siccome non vi era nessuna avvisaglia del tè, né in base alle notizie recate da Betsy dalla cucina, molta speranza di vederlo presto comparire. William decise di andare subito a cambiarsi d'abito e a fare i necessari preparativi per trasferirsi a bordo in modo da poter poi prendere il tè comodamente. Mentre lasciava la stanza, vi si precipitarono dentro due ragazzini, uno di 8 e l'altro di 10 anni circa, con le faccette arrossate, scalcinati e sudici. Appena messi in libertà dalla scuola, venivano tutti accitati a vedere la sorella e a dire che la Thrush aveva lasciato il porto. Erano Tom e Charles. Charles era nato dopo la partenza di Fanny, ma ella aveva spesso aiutato la madre ad accudire Tom e ora provava uno speciale piacere nel rivederlo. Li baciò tutti e due tenerissimamente, ma Tom se lo volle tenere vicino per tentare di rintracciare i lineamenti del pupetto al quale aveva voluto bene e dirgli come l'avesse prediletto quando era piccino. Tom, tuttavia, non intendeva essere trattato in quel modo. Era tornato a casa non per stare fermo e per ascoltare chi gli voleva parlare, ma per correre in giro liberamente e far baccano. Perciò ambedue i ragazzini le sfuggirono al più presto e uscirono dal soggiorno sbattendo la porta con tanta violenza da darle una fitta alle tempie. Ora aveva visto tutti i membri della famiglia presenti in casa. Vi erano ancora due fratelli fra lei e Susan, uno dei quali era impiegato in un pubblico ufficio a Londra e l'altro era imbarcato su un mercantile che faceva la rotta dell'India. Ma, benché avesse visto tutti i membri della famiglia presenti, non aveva ancora udito tutto il rumore che potevano fare. Un altro quarto d'ora gliene fornì un supplemento. William chiamava a gran voce dal pianerottolo del secondo piano sua madre Rebecca. Era preoccupato per qualcosa che aveva lasciato in camera sua e che non trovava più. Una chiave era andata smarrita, Betsy era accusata di aver pasticciato col suo cappello nuovo e avevano trascurato di far apportare, come avevano promesso, alcune lievi ma fondamentali modifiche al panciotto della sua uniforme. Mrs. Price, Rebecca e Betsy andarono tutte e tre di sopra per difendersi dalle accuse, parlando tutte e tre insieme, ma Rebecca a voce più alta di tutte. E si dovette fare il lavoro sui due piedi alla meglio, in gran fretta, perché William tentava invano di rispedire giù Betsy o di impedirle di dar fastidio là dove si trovava. Il tutto, poiché quasi ogni porta nella casa era spalancata, si poteva seguire distintamente dal soggiorno, eccetto quando veniva coperto a intervalli dal rumore prodotto da Sam, Tom e Charles che si rincorrevano su e giù per le scale, vociando e capitombolando l'uno sull'altro. Fanny era letteralmente frastornata. La ristrettezza della casa, lo scarso spessore delle pareti rendevano ogni suono così vicino che, stanca com'era del viaggio e prostrata dall'agitazione, quasi non poteva sopportare tanta confusione. Lì, nel soggiorno, tutto era abbastanza quieto, poiché scomparsa Susan, assieme agli altri, presto rimasero solamente Fanny e suo padre. Lui, prendendo un giornale, solitamente imprestato da un vicino, si immerse nella lettura, senza dar segno di rammentarsi dell'esistenza della figlia. La solitaria candela era posta fra lui e il giornale, senza nessuna considerazione per quelle che potevano essere le sue esigenze. D'altra parte, non aveva nulla da fare ed era lieta che la luce fosse schermata ai suoi occhi doloranti, mentre se ne stava lì in sbalordita, smarrita, tristissima contemplazione. Era a casa sua, ma ahimè, non era una simile casa, non era quella l'accoglienza che si contenne. Era irragionevole. Che diritto aveva di essere importante per la sua famiglia? Non poteva averne alcuno dopo che da tanto tempo l'avevano perduta di vista. Gli interessi di William dovevano essere i più cari, sempre lo erano stati, ed egli aveva ogni diritto all'attenzione. Eppure, sentirsi dire o chiedere così poco di se stessa, non sentirsi chiedere nulla di Mansfield, le dava pena che Mansfield fosse ignorato insieme ai parenti che avevano fatto tanto, quei parenti così cari. Ma qui un solo interesse assorbiva ogni altro. Forse doveva essere così. La destinazione della Thrush doveva essere ora di preminente importanza. Un giorno o due avrebbero prodotto una differenza. Lei sola era da biasimare. Eppure pensava che le cose non si sarebbero svolte così a Mansfield. No, nella casa di suo zio si sarebbero presi in considerazione e rispettati i tempi e i momenti opportuni. Vi sarebbe stata una regola negli argomenti trattati, una proprietà, un'attenzione verso ognuno che qui non c'erano. Per tutta una mezz'ora L'unica interruzione di questi suoi pensieri fu provocata da un'improvvisa esplosione di suo padre che non contribuì certo a ricomporli. Ad un insostenibile fortissimo dei tonfi e degli urli che giungevano dall'anticamera, egli sbottò: «Il diavolo si porti quei bastardi, sentili come gridano. Già, e Sam più degli altri, quel ragazzo è adatto per fare il nostromo. Oi là, dico a te, Sam, piantala con quella tua maledetta voce o arrivo io». Questa minaccia fu così apertamente disattesa che benché 5 minuti dopo i 3 ragazzini facessero irruzione nella stanza e si mettessero a sedere, Fanny non vide in ciò che la prova del fatto che per il momento erano completamente esausti. Lo testimoniavano i loro visi accaldati e il loro respiro ansimante, tanto più che continuavano a prendersi a calci negli stinchi, sbottando a tratti in urli improvvisi proprio sotto gli occhi del padre. Quando, poco dopo, la porta si aprì, fu per segnalare un ingresso più gradito, quello dell'occorrente per preparare il tè, che Fanny aveva quasi incominciato a disperare di vedersi offrire quella sera. Susan e una servetta, il cui aspetto più che trasandato fece capire alla sorpresissima Fanny che quella che aveva visto poco prima era la domestica, portavano tutto quanto occorreva per il pasto serale. Susan, mentre posava il bollitore sul fuoco, gettò un'occhiata alla sorella come combattuta fra il piacevole trionfo di dar prova di attività, dimostrandosi utile, e il timore di svilirsi sbrigando personalmente quella mansione. Era andata in cucina, disse, per far fretta a Sally e aiutarla a preparare il pane tostato e a spalmarci il burro, perché non sapeva quando, senza il suo intervento, il tè sarebbe stato pronto ed era sicura che la sorella, dopo il viaggio, avesse bisogno di prendere qualcosa. Fanny espresse tutta la sua gratitudine. Innegabilmente una tazza di tè le avrebbe fatto molto piacere. Susan si mise subito a prepararlo, compiaciuta di potervisi dedicare da sola. E a parte un po' di inutile confusione e alcuni incauti tentativi di mantenere in riga i fratelli, il che certo non era nelle sue possibilità, in complesso ne venne fuori benissimo. Fanny si sentì ristorata tanto moralmente quanto fisicamente. Provò un gran sollievo nella mente e nel cuore di fronte a quell'atto di così tempestiva gentilezza. Susan aveva un modo di fare giudizioso, somigliava a William, e Fanny sperò di trovare in lei le stesse disposizioni e la stessa buona volontà di lui. In questa più distesa atmosfera, William rientrò, seguito a ruota dalla madre e da Betsy. Nella divisa di tenente sembrava più alto, più deciso e si muoveva con maggior grazia. Col più radioso sorriso andò difilato verso Fanny, che levatasi in piedi lo contemplò per un momento con muta ammirazione, prima di gettargli le braccia al collo e di sfogare, scoppiando in singhiozzi tutte le sue emozioni di piacere e di pena. Ansiosa di non dare a vedere la propria infelicità, subito si riprese e, asciugandosi le lacrime, fu in condizione di notare e di ammirare ogni più vistoso particolare dell'uniforme di William, ascoltandolo, con spirito assai più sollevato, mentre esprimeva la speranza di trascorrere a terra parte di ogni giornata, prima di prendere il mare e perfino di riuscire a portarla a Spithead per farle vedere la corvetta. La successiva folata di confusione introdusse Mr. Campbell, il chirurgo della Thrush, un giovane dai modi corretti e gentili che veniva a prendere l'amico e per il quale, con qualche difficoltà, fu trovata una sedia. E grazie a un affrettato risciacquio da parte della giovane somministratrice del tè, anche una tazza e un piattino. E dopo un altro quarto d'ora di animata conversazione fra i signori, in mezzo a un accavallarsi e susseguirsi di trambusto e rumore, finalmente gli uomini e i ragazzi si accinsero tutti quanti ad uscire, visto che era arrivata l'ora di mettersi in cammino e ogni cosa era pronta. William si congedò e tutti se ne andarono, visto che i 3 ragazzini, a dispetto delle implorazioni della madre, avevano deciso di accompagnare il fratello e Mr. Campbell fino al molo, dove erano ancorati i canotti delle navi da guerra. Con loro uscì anche Mr. Price per riportare il giornale vicino. A questo punto si poteva sperare in qualcosa che somigliasse alla quiete e conseguentemente, dopo che si riuscì ad ottenere che Rebecca si lasciasse convincere a portare via le stoviglie da tè E Mrs. Price ebbe fatto varie volte il giro della stanza alla ricerca di una manica di camicia che alla fine Betsy scovò in un cassetto del tavolo di cucina. Il piccolo gruppo femminile si trovò compostamente seduto e la madre, dopo aver nuovamente lamentato l'impossibilità di preparare l'equipaggiamento di Sam prima che la nave salpasse, trovò l'opportunità di pensare alla figlia maggiore e alle persone che ella aveva lasciato dietro di sé a Mansfield. Mrs. Price rivolse alcune domande, ma una delle prime: come riusciva sua sorella Bertram a dirigere la servitù? Incontrava le sue stesse difficoltà per trovare persone di servizio tollerabili? Ben presto sviò la sua mente dal Northamptonshire e la fissò sui propri problemi casalinghi e l'indisponente indole di tutte le domestiche di Portsmouth, fra le quali lei era convinta che le sue due fossero senz'altro le peggiori, l'assorbì totalmente. Tutti i Bertram furono dimenticati mentre elencava le mancanze di Rebecca, contro la quale anche Susan aveva molto da dire, e la piccola Betsy ancora di più, e che sembrava così totalmente priva di qualsiasi dote atta a raccomandarla, che Fanny si azzardò a esprimere la supposizione che sua madre certo intendeva licenziarla alla scadenza del suo contratto annuo di assunzione. «La scadenza del suo contratto?» esclamò Mrs. Price. Ti assicuro che spero di essere liberata dalla sua presenza prima che resti per un anno intero in casa nostra. Il contratto non finirà prima di novembre. Qui a Portsmouth le domestiche sono arrivate fino a tal punto, mia cara, che è un vero miracolo se le si sopporta più di 6 mesi. Non spero nemmeno di essere mai veramente a posto, e se mandassi via Rebecca potrei solamente trovarne una peggiore. Eppure non credo di essere molto difficile da accontentare come padrona di casa e ti assicuro che qui da noi non c'è molto da fare poiché c'è sempre un'altra ragazza a dare una mano alla domestica e spesso metà del lavoro lo faccio io personalmente. Fanny rimase in silenzio, ma non perché fosse convinta che non vi era rimedio per alcuni dei mali enumerati. Mentre se ne stava seduta osservando Betsy, non poté non pensare intensamente a un'altra sorella, una bimbetta graziosissima che quando era partita per il Northamptonshire non era di molto minore di Betsy e che era morta alcuni anni più tardi. Vi era in lei un che di straordinariamente accattivante. In quei tempi lontani Fanny l'aveva preferita a Susan e quando in processo di tempo la notizia della sua morte le era giunta a Mansfield, per un certo periodo ne era stata profondamente afflitta. La visita di Betsy ravvivava il ricordo della piccola Mary. Ma per nessuna cosa al mondo avrebbe voluto dar pena a sua madre facendovi allusione. Mentre la rievocava, Betsy, lì vicino, continuava a sollevare qualcosa per attirare la sua attenzione, tentando contemporaneamente di nasconderla alla vista di Susan. «Cos'hai lì, tesoro?» disse Fanny. «Vieni a mostrarmelo». Era un coltellino d'argento. Susan balzò in piedi reclamandolo per suo e tentò di prenderglielo, ma la bimba corse a rifugiarsi dalla madre e Susan poté solo rimproverarla, cosa che fece con foga, sperando evidentemente di avere Fanny dalla sua. Era estremamente ingiusto che lei non potesse avere il suo coltellino. La sorellina Mary glielo aveva lasciato sul suo letto di morte e lei avrebbe dovuto averlo in consegna già da tempo. Ma la mamma glielo aveva preso e lo lasciava continuamente fra le mani di Betsy. E il risultato sarebbe stato di vederlo rovinare da Betsy, che lo teneva per sé come fosse suo, benché la mamma avesse promesso a lei, Susan, che Betsy non lo avrebbe avuto mai fra le mani. Fanny si sentì profondamente urtata. Le parole della sorella e poi la risposta della madre ferivano in lei ogni senso di ciò che era il dovere, l'onore e la tenerezza. «Ma via, Susan!» aveva esclamato Mrs. Price con voce lamentosa. «Perché ti arrabbi tanto, sempre a litigare per quel coltellino? Non dovresti essere così litigiosa. Povera piccola Betsy, come si arrabbia Susan con te? Ma non avresti dovuto prenderlo, tesoro, quando ti ho mandata ad aprire il cassetto. Sai bene che ti avevo detto di non toccarlo, perché Susan si arrabbia tanto. La prossima volta lo dovrò nascondere, Betsy». La povera Mary certo non pensava che sarebbe diventato un simile pomo della discordia quando me lo diede da tenere 2 ore prima che morisse. Povera animuccia, poteva a malapena parlare udibilmente e disse così a modino: «Mamma, dai il mio coltellino a mia sorella Susan quando sarò morta e sepolta». Povera piccola cara, ci teneva tanto Fanny che ha voluto averlo a letto con sé durante tutta la malattia. Era stato il regalo della sua buona madrina, la vecchia moglie dell'ammiraglio Maxwell, solo 6 settimane prima che si ammalasse. Povera piccola, dolce creatura. Bene, è stata sottratta a tutti i mali che ci aspettavano nella vita. Betsy mia, vezzeggiandola, tu non hai la fortuna di avere una così buona madrina. La zia Norris vive troppo lontano, vedi, per pensare a una personcina quale sei tu. E in effetti Fanny non aveva nulla da portare da parte della zia Norris all'infuori di un'ambasciata in cui esprimeva la sua speranza di apprendere che la figlioccia era una buona bambina e studiava i sillabari. A un certo punto, nel salotto a Mansfield Park, si era vagamente accennato all'intenzione di mandare a Betsy un libro di preghiere, ma non se n'era più parlato. È vero che Mrs. Norris, tornata a casa sua, aveva tirato giù 2 vecchi libri di preghiere di suo marito con l'idea di darne uno, ma dopo attenta riflessione quello slancio di ardente generosità si era spento. Notò che uno era stampato in lettere troppo minute per gli occhi di una bambina, mentre l'altro era di proporzioni troppo ingombranti per essere facilmente trasportato. Fanny, stanca del viaggio e stanca per tutto quanto era seguito all'arrivo, fu lieta di aderire subito all'invito di andare a letto. E prima che Betsy avesse smesso di piangere protestando perché le permettevano di stare alzata solamente un'ora in più del solito, in onore della sorella, si ritirò al piano di sopra, mentre ogni cosa da basso piombava nuovamente in uno stato di rumorosa confusione, coi ragazzini che reclamavano formaggio tostato, il padre che chiedeva a gran voce il suo rum annacquato, e Rebecca, che non era mai dove avrebbe dovuto trovarsi. Nella stanzetta soffocante a malapena mobiliata che doveva condividere con Susan, non trovò nulla che le sollevasse lo spirito. L'angustia degli ambienti al piano terra e al piano di sopra, i corridoi e le scale, entrambi strettissimi, la colpirono oltre l'immaginabile. Ben presto, in quella casa troppo ristretta per consentire comodità a uno qualsiasi dei suoi abitanti, imparò a pensare con rispetto al suo piccolo attico di Mansfield Park.